Ben presto Rosamond lasciò il piano e si sedette su una sedia accanto al divano e davanti al volto del marito. «Ho suonato abbastanza per voi, mio signore?» chiese, congiungendo le mani davanti a sé e assumendo una certa aria di docilità. «Sì, cara, se sei stanca», disse Lydgate, volgendo gli occhi e posandoli su di lei, ma senza muovere altro. La presenza di Rosamond in quel momento forse non era più di una goccia d'acqua portata al lago e il suo istinto femminile se ne accorse. «A cosa stai pensando?» disse piegandosi in avanti, avvicinando la faccia a quella di lui. Egli mosse le mani e le posò dolcemente dietro le spalle di lei. «Sto pensando a un grand'uomo che aveva più o meno la mia età 300 anni fa e aveva già inaugurato una nuova era nel campo dell'anatomia». «Non riesco a indovinare», disse Rosamond scuotendo il capo. «Eravamo soliti a giocare a indovinare i personaggi storici da Mrs. Lemon, ma non gli studiosi di anatomia». «Te lo dirò io. Si chiamava Vesalius. E l'unico modo per poter giungere a conoscere l'anatomia come lui era di andare a rubare i cadaveri di notte, dai cimiteri e dai luoghi delle esecuzioni». Fece Rosamond con un'aria di disgusto sul suo bel visino. «Sono molto contenta che tu non sia Vesalius. Avrebbe potuto trovare qualche maniera meno orribile di quella». «No, non poteva», disse Lydgate, continuando troppo seriamente per dare importanza alla sua risposta. «Riuscì a procurarsi uno scheletro completo solo rubandolo dalla forca, le ossa imbiancate di un criminale, e seppellendole e portandole via pezzo per pezzo segretamente nel cuore della notte». «Spero che non sia uno dei tuoi grandi uomini», disse Rosamond con aria per metà giocosa, per metà ansiosa, «altrimenti avrò un marito che si alza di notte per andare nel cimitero di St. Peter. Ricordi com'era addirata la gente per Mrs. Gobby? Hai già abbastanza nemici». «Ne aveva anche Vesalius, Rosie. Non c'è da meravigliarsi che i medici parrucconi di Middlemarch siano gelosi, quando qualcuno dei maggiori dottori allora viventi erano furibondi contro Vesalius, perché avevano creduto in Galeno, ed egli mostrò loro che Galeno aveva torto. Lo chiamarono mentitore e mostro velenoso, ma i fatti della costituzione del corpo umano stavano dalla sua parte, e così ebbe la meglio su di loro». «E dopo cosa gli successe?» chiese Rosamond con un certo interesse. «Oh, dovette battersi molto fino alla fine. E una volta lo esasperarono a tal punto da indurlo a bruciare gran parte della sua opera. Poi fece naufragio, proprio mentre stava tornando da Gerusalemme per assumere una cattedra importante a Padova. Morì piuttosto miseramente». Ci fu un attimo di silenzio prima che Rosamond dicesse: «Lo sai, Tertius, spesso vorrei che non fossi un medico». «No, Rosie, non dire così», fece Lydgate, attirandola più vicino a sé. «È come dire che vorresti aver sposato un altro uomo». «Per niente. Sei abbastanza intelligente per fare qualsiasi cosa. Avresti potuto facilmente fare qualcos'altro. E i tuoi cugini di Quellingham pensano tutti che tu sia sceso di un gradino scegliendo questa professione». «I cugini di Quellingham possono andare al diavolo», esclamò Lydgate con disprezzo. «È tipico della loro impudenza, se ti hanno detto alcunché del genere». «Eppure», disse Rosamond, «io non penso che sia una bella professione, caro. Sappiamo che mostrava una qualche tranquilla ostinazione nelle sue opinioni». «È la più grande professione del mondo, Rosamond», disse Lydgate con aria grave. «E dire che mi ami senza amare il medico che c'è in me è come dire che ti piace mangiare una pesca ma non ti piace il suo aroma. Non ripeterlo, cara, mi addolora». «Molto bene, dottor Faccia Seria», disse Rosie facendo la fossetta. «In futuro affermerò che vado pazza per gli scheletri, ladri di cadaveri e frammenti di roba in fiale, e le liti con tutti che finiranno con la tua morte miseranda». «No, no, non un tale disastro», fece Lydgate, rinunciando a protestare e coccolandola con aria rassegnata. Capitolo 46. Mentre Lydgate, giunto sano e salvo al matrimonio e con l'ospedale sotto la sua direzione, si rendeva conto di lottare per la riforma sanitaria contro Middlemarch diveniva sempre più consapevole della lotta nazionale per un altro genere di riforma. Al tempo in cui le proposte di Lord John Russell venivano dibattute alla Camera dei Comuni, a Middlemarch nasceva una nuova animazione politica e una nuova definizione dei partiti che avrebbe potuto mostrare un deciso mutamento dell'equilibrio se si fosse giunti a nuove elezioni. E c'erano alcuni che già prevedevano questo avvenimento dichiarando che una legge di riforma non sarebbe mai stata realizzata dal governo attuale. Questo era ciò che Will Ladislaw faceva notare a Mr. Brooke come motivo per congratularsi con lui per non essersi ancora cimentato ai comizi elettorali. Le cose cresceranno e matureranno come se fosse un anno della cometa, disse Will. Lo stato d'animo generale ben presto giungerà a un calore da cometa, ora che la questione della riforma si è messa in moto. È probabile che ci siano altre elezioni entro breve termine e per quel momento Middlemarch si sarà ficcata in testa più idee. Ciò a cui ora dobbiamo dedicarci sono il Pioneer e le riunioni politiche. Giustissimo, Ladislav, faremo dell'opinione pubblica una cosa del tutto nuova in questa città, disse Mr. Brooke. Solo voglio tenermi indipendente nei riguardi della riforma, capite? Non voglio andare troppo in là. Voglio seguire la linea di condotta di Wilberforce e di Romilly, capite? E farmi da parte per l'emancipazione dei negri, per la legge criminale, cosa del genere, ma naturalmente appoggerei i Grey. Se aderite alla riforma in via di principio, dovete essere pronto a prendere quello che la situazione offre, disse Will. Se ognuno tirasse per conto proprio contro chiunque altro, l'intera questione andrebbe in malora. Sì, sono d'accordo con voi, accetto perfettamente quel punto di vista, lo esporrei in questo modo. Offrirei il mio sostegno a Grey, sapete, ma non voglio mutare l'equilibrio della Costituzione e non credo che Grey lo vorrebbe. Ma questo è ciò che il paese vuole, disse Will, altrimenti non ci sarebbe senso nei gruppi politici o in qualsiasi altro movimento che sa cosa vuole. Il paese vuole avere una Camera dei Comuni che non sia appesantita da candidati della classe dei proprietari terrieri, ma con rappresentanti degli altri interessi. E quanto a battersi per una riforma più moderata di questa, è come chiedere un pezzetto di una valanga che ha già cominciato a tuonare. Questo è bello, Ladislav. Questo è il modo di porre la cosa. Prendetene nota ora. Dobbiamo cominciare a procurarci i documenti sull'opinione del paese, oltre che sulle distruzioni di macchine e la miseria generale. Quanto ai documenti, disse Will, un biglietto di 5 centimetri ne conterrà un sacco. Alcune righe di numeri sono sufficienti per fare una stima della povertà e qualche altra mostrerà a che ritmo la determinazione politica del popolo sta crescendo. Bene, spiegatelo un po' più diffusamente, Ladislav. Quella è un'idea, ecco, scrivetelo bene sul Pioneer. Le cifre e deducetene la povertà, capite? Mettete le altre cifre e deducete e così avanti. Avete un bel modo di esprimere le cose, Bark. Ecco, quando penso a Bark, non posso fare a meno di desiderare che qualcuno avesse una circoscrizione di cui darvi la rappresentanza, Ladislav. Non sareste mai eletto, sapete, e avremo sempre bisogno di talento alla Camera. Per quanto riformiamo, avremo sempre bisogno di talento. Quella valanga e il tuono, ecco, erano proprio un po' come Bark. Voglio quel genere di cosa, niente idee, capite, ma un modo di esprimerle. Le circoscrizioni a rappresentanza unica sarebbero una bella cosa, disse Ladislav, se fossero sempre nelle mani giuste e ci fosse sempre un Bark a portata di mano. Will non fu dispiaciuto del paragone lusinghiero, anche se proveniva da Mr. Brooke, perché è un po' troppo logorante per la natura umana essere consapevole di esprimersi meglio di altri senza che questo sia mai notato. E nella generale carenza di ammirazione per la cosa giusta, persino il causale echeggiare di un applauso che si fa sentire proprio al momento giusto è piuttosto corroborante. Will aveva l'impressione che le sue doti letterarie erano di solito superiori ai limiti della comprensione di Middlemarch, ciò non di meno cominciava a piacergli completamente il lavoro di cui, quando aveva cominciato, si era detto con aria piuttosto apatica. Perché no? E studiò la situazione politica con lo stesso fervido interesse che aveva sempre dedicato ai metri della poesia o al medievalismo. È innegabile che se non fosse stato per il desiderio di stare dove si trovava Dorotea, e forse perché non sapeva cos'altro fare, Will in quel momento non si sarebbe trovato a meditare sui bisogni del popolo inglese o a criticare il modo inglese di governare. Probabilmente avrebbe girovagato per l'Italia, abbozzando progetti per diversi drammi, affrontando la prosa e trovandola troppo insipida, affrontando la poesia e trovandola troppo artificiosa, cominciando a copiare frammenti di vecchi quadri, lasciando perdere perché erano dei fallimenti e osservando che dopo tutto la cultura dell'autodidatta era la cosa essenziale, mentre in politica avrebbe simpatizzato caldamente per la libertà e il progresso in generale. Il nostro senso del dovere deve spesso attendere qualche lavoro che prenda il posto del dilettantismo e ci faccia sentire che la qualità del nostro agire non è una questione di poca importanza. Ladislav ora aveva accettato la sua piccola parte di lavoro, sebbene non fosse quella cosa indeterminata e grandiosa che un tempo nei suoi sogni era stata l'unica degna di uno sforzo continuato. La sua natura si riscaldava facilmente alla presenza di argomenti che avevano visibilmente a che fare con la vita e con l'azione, e il suo spirito ribelle e facilmente infiammabile contribuì all'infervorarsi dell'interesse politico. A dispetto di Mr. Casaubon e dell'esilio da Lowick, era piuttosto felice. Acquisiva una grande quantità di nuove nozioni, in modo vivido e per scopi pratici, e per merito suo il Pioneer era esaltato fino a Bressing. La ristrettezza della zona non ha importanza, gli iscritti non erano peggiori di molti che raggiungono i quattro angoli della Terra. Mr. Brooke qualche volta era irritante, ma l'impazienza di Will era mitigata dal fatto di dividere il proprio tempo fra visite alla Grange e momenti in cui si ritirava nel suo alloggio a Middlemarch, il che conferiva varietà alla sua vita. Cambiamo un po' la situazione, egli si diceva, e Mr. Brooke potrebbe essere ministro e io sottosegretario. Questo è l'ordine comune delle cose. Le piccole onde formano le grandi e seguono lo stesso modello. Io sto meglio qui che nel genere di vita per cui Mr. Casaubon mi avrebbe voluto istruire, dove l'azione sarebbe stata tutta predisposta da un presente troppo rigido perché io potessi reagire adesso. Il prestigio o uno stipendio non mi importano. Lydgate aveva detto di lui che era una specie di zingaro piuttosto soddisfatto della sensazione di non appartenere a nessuna classe. C'era un senso di romanticismo nella sua posizione, la piacevole consapevolezza di suscitare un po' di sorpresa dovunque andasse. Quella specie di gioia era stata turbata quando aveva avvertito una certa nuova distanza fra sé e Dorothea nel loro incontro casuale a casa di Lydgate. E la sua irritazione si era indirizzata verso Mr. Casaubon, che aveva dichiarato in precedenza che Will sarebbe decaduto nella scala sociale. Non ho mai avuto un posto nella scala sociale, egli avrebbe detto se gli fosse stata comunicata quella profezia, e il sangue vivo sarebbe affluito alla sua pelle trasparente e defluito di nuovo come il respiro. Ma una cosa è amare la provocazione e un'altra amare le sue conseguenze. Frattanto, l'opinione pubblica cittadina sul nuovo direttore del Pioneer tendeva a confermare il punto di vista di Mr. Casaubon. Il rapporto di parentela di Will con quell'ambiente distinto, a differenza dei parenti altolocati di Lydgate, non serviva da vantaggiosa presentazione. Se correva la voce che il giovane Ladislav era il nipote o il cugino di Mr. Casaubon, si diceva anche che Mr. Casaubon non voleva avere niente a che fare con lui. Brooke l'ha assunto, disse Mr. Haley, perché quello è ciò che nessun uomo in possesso delle proprie facoltà mentali si sarebbe potuto aspettare. Casaubon ha mille buone ragioni, ne potete star certi, per evitare un giovane che aveva mandato a scuola pagando di tasca sua. È proprio tipico di Brooke, una di quelle persone che loderebbe un gatto per vendere un cavallo. E alcune stranezze di Will, più o meno poetiche, parvero dar ragione a Mr. Keck, il direttore del Trumpet, quando asseriva che Ladislav, se si fosse scoperta la verità, non solo era un emissario polacco, ma anche un pazzo, il che spiegava la soprannaturale rapidità e loquacità quando saliva su un palco, come faceva ogni qualvolta se ne presentava l'occasione, sfoderando una parlantina che induceva i solidi inglesi in generale a riflettere. Per Keck era disgustoso vedere un giovanottello dai riccioli chiari intorno al capo alzarsi e concionare per ore contro istituzioni che esistevano quando lui era nella culla. In un articolo di fondo del Trumpet, Keck definì il discorso di Ladislav a una riunione per appoggiare la riforma come la violenza di un energumeno, un miserabile tentativo di avvolgere nel bagliore dei fuochi d'artificio le audaci e responsabili affermazioni e la povertà di conoscenza che era del genere più dozzinale e recente. Formidabile articolo quello di ieri, Catch, disse il dottor Sprague con intenzioni sarcastiche. Ma che cos'è un energumeno? Oh, un termine che è saltato fuori durante la Rivoluzione francese, rispose Keck. A questo aspetto pericoloso di Ladislav facevano da strano contrasto alcune abitudini che divennero oggetto di commento. Nutriva un amore per metà d'artista, per metà dettato dall'effetto per i bambini piccoli, quanto più piccoli erano su delle gambe sufficientemente attive e quanto più ridicolo il loro vestiario, tanto più a Will piaceva suscitare il loro sorpresa e divertimento. Sappiamo che a Roma era solito aggirarsi fra la povera gente e questo gusto non l'abbandonò a Middlemarch. Chissà in che modo aveva raccolto un gruppo di buffi fanciulli, ragazzini senza berretto con i pantaloni assai consunti e delle camicette corte che pendevano fuori, ragazzine che si scrollavano i capelli dagli occhi per guardarlo e dei loro fratelli che alla matura età di 7 anni dovevano sorvegliarli. Questo gruppo egli l'aveva condotto fuori città in escursioni zingaresche fino al bosco di Alsel al tempo della raccolta delle noci. Da quando il tempo si era fatto freddo, l'aveva portato in una giornata serena a raccogliere bastoncelli per un falò in un avvallamento nel fianco di una collina, dove imbandì loro un festino di pan pepato e improvvisò una rappresentazione di Pulcinella e Giuditta con alcuni suoi burattini fatti in casa. Ecco una delle stranezze. Un'altra era che nelle case dove aveva fatto amicizia era incline a stendersi per tutta la lunghezza sul tappeto mentre parlava e poteva venire scoperto in questo atteggiamento da visitatori occasionali, per i quali una tale posizione irregolare probabilmente costituiva una conferma delle idee che fosse di sangue pericolosamente misto e di una generale rilassatezza di costumi. Ma gli articoli e i discorsi naturalmente rendevano accetto Willy in famiglie che il nuovo rigore delle divisioni di partito aveva spinto fra i sostenitori della riforma. Fu invitato da Mr. Balstrow, ma qui non si poté stendere sul tappeto e Mrs. Balstrow si rese conto che il suo modo di parlare dei paesi cattolici, come se ci fosse una qualche tregua con l'anticristo, esemplificava la consueta tendenza degli intellettuali a cadere nell'errore. A casa di Mr. Fairbrother, tuttavia, che l'ironia della sorte aveva portato a schierarsi dalla stessa parte di Balstrow nel movimento nazionale, Will divenne un beniamino delle donne. In particolar modo della piccola Miss Noble, che era una delle sue stranezze scortare quando la incontrava per strada col suo cestino, dandole il braccio agli occhi di tutta la città e insistendo ad accompagnarla a fare alcune visite durante le quali distribuiva le sue piccole sottrazioni della propria parte di dolciumi. Ma la casa che visitava più spesso e dove si distendeva di più sul tappeto era quella di Lydgate. I due uomini non erano del tutto simili, ma concordavano ugualmente. Lydgate era brusco, ma non irritabile, e dava poca importanza al cattivo umore della gente sana, e Ladislav di solito non sprecava le proprie suscettibilità su coloro che non ne tenevano conto. Con Rosamond, d'altro canto, si imbronciava e faceva i capricci, anzi, spesso era poco complimentoso, con grande sorpresa della donna. Ciò non di meno stava diventando gradualmente necessario al divertimento di lei con la sua compagnia quando suonava, le sue chiacchiere svariate e l'assenza in lui delle gravi preoccupazioni che con tutta la tenerezza e l'indulgenza di suo marito spesso le rendevano i suoi modi poco graditi e la confermavano nell'antipatia per la professione medica. Lydgate, incline a fare del sarcasmo sulla fede superstiziosa del popolo, nell'efficacia del disegno di legge, mentre nessuno si preoccupava dello stato penoso della patologia, talvolta assaliva Will con domande importune. Una sera di marzo, Rosamond, col suo abito color ciliegia con guarnizione di piuma di cigno attorno alla gola, sedeva al tavolino da tè. Lydgate, ricasato da poco, stanco per il lavoro fuori casa, era seduto di sbieco in una poltrona presso il fuoco, con una gamba su un bracciolo, la fronte un po' pensosa, mentre con gli occhi scorreva le colonne del Pioneer. Frattanto Rosamond, avendo notato che era turbato, evitava di guardarlo e dentro di sé ringraziava il cielo di non avere un carattere ombroso. Will Ladislav era disteso sul tappeto, intento a contemplare distrattamente il sostegno della tela e canticchiava assai a bassa voce le note di «Quando scorsi il tuo volto». Mentre lo spaniel di casa, anch'esso disteso con poca scelta di spazio, guardava di fra le zampe l'usurpatore del tappeto con muta ma forte avversione. Quando Rosamond stava portando a Lydgate la sua tazza di tè, questi buttò a terra il giornale e disse a Will che si era alzato ed era andato al tavolo. È inutile che lo odiate Brooke, come un proprietario terriero riformatore, Ladislav. Sul Trumpet li troveranno ancora più magagne. Non importa, quelli che leggono il Pioneer non leggono il Trumpet, disse Will bevendo il tè e mettendosi a camminare qua e là. Pensate che il pubblico legga allo scopo di farsi convertire. Allora avremo un fantastico calderone da streghe. Mescolate, mescolate, mescolate, voi che potete, mescolate! E nessuno saprebbe da che parte schierarsi. Fairbrother dice che non crede che Brooke sarebbe eletto se se ne presentasse l'occasione. Gli stessi uomini che professano di sostenerlo tirerebbero fuori dal sacco un altro candidato al momento giusto. Non si corre nessun rischio a tentare. È bene avere dei membri residenti. Perché? chiese Lydgate, che era molto portato ad usare quella parola scomoda in tono brusco. Rappresentano meglio la stupidità locale, disse Will ridendo e scuotendo i riccioli, e nel loro ambiente sono costretti a comportarsi nel modo migliore. Brooke non è un tipo malvagio, ma nella sua tenuta ha fatto alcune cose buone che non avrebbe mai fatto se non fosse stato per questo miraggio parlamentare. Non è adatto fare l'uomo politico, disse Lydgate con determinazione sprezzante. Deluderebbe tutti quelli che hanno contato su di lui. Lo vedo all'ospedale. Solo che là Balstro tiene le redini e lo guida. Questo dipende dal modo in cui fissate il vostro modello di uomo politico, disse Will. Va abbastanza bene per l'occasione. Quando la gente ha deciso, come sta facendo ora, non vuole un uomo, vuole solo un voto. Ecco come fate voi giornalisti politici, Ladislav. Portate alle stelle un provvedimento come se fosse una panacea e portate alle stelle degli uomini che fanno parte della stessa malattia che deve essere guarita. Perché no? Gli uomini possono contribuire alla propria sparizione dalla faccia della terra senza saperlo, disse Will, che sapeva trovare delle ragioni lì per lì, quando non aveva preso in considerazione una domanda in precedenza. Non è una buona scusa per incoraggiare l'esagerazione superstiziosa di speranze su questa particolare misura. Sostenere lo slogan di ingoiarla tutta intera e di mandare a votare dei belli imbusti che non sono buoni a nulla se non ad approvarla. Siete contro il marciume e non c'è nulla di più completamente marcio del far credere alla gente che la società può essere curata da un gioco di prestigio politico. Sta benissimo, mio caro amico, ma la vostra cura deve cominciare da qualche parte e considerate che mille cose che avviliscono un popolo non si possono riformare senza cominciare da questa particolare riforma. Guardate cosa ha detto Staley l'altro giorno. Che la Camera aveva cincischiato abbastanza su piccoli problemi di corruzione, indagando se questo o quell'elettore avesse ricevuto una guinea, quando tutti sanno che i seggi sono stati venduti all'ingrosso. Aspettarsi saggezza e coscienza negli uomini politici? Sciocchezze. L'unica coscienza di cui ci possiamo fidare è il senso massiccio che ha una classe di aver subito un torto, e la migliore saggezza che funzionerà è la saggezza di equilibrare le pretese. Questo è il mio Vangelo. Qual è la parte offesa? Io sostengo l'uomo che appoggia le loro pretese, non il virtuoso sostenitore del torto. Questo generalizzare su un caso particolare significa semplicemente dare per scontate le cose, Ladislav. Quando io dico che sono favorevole a un farmaco che guarisce, non ne segue che sono favorevole all'oppio in un caso dichiarato di gotta. Non sto perorando la cosa che stiamo discutendo, mi chiedo se non dobbiamo tentare nulla finché non troveremo delle persone immacolate con cui lavorare. Proseguireste su questo piano? Se ci fosse un uomo che approvasse una riforma sanitaria, un altro che vi si opponesse, stareste a indagare quale abbia i motivi più onesti o addirittura il cervello migliore? Oh, naturalmente, disse Lydgate al vedersi messo in scacco da una mossa che egli stesso aveva usato spesso se uno non lavorasse con gli uomini che sono disponibili. E cosa arriverebbero a un punto morto? Supponiamo che la peggiore opinione in città su Balstrode fosse fondata. Ciò non renderebbe meno vero che egli ha il senso e la risolutezza di fare ciò che io penso si dovrebbe fare in questioni che conosco e che mi stanno moltissimo a cuore, ma questo è l'unico terreno su cui mi associo a lui. Aggiunse Lydgate in tono piuttosto orgoglioso, tenendo presenti le osservazioni di Mr. Fairbrother. Sotto tutti gli altri aspetti, per me non conta niente. Non lo esalterei per nessun motivo personale, me ne guarderei bene. Intendete dire che io esalto Brooke per qualche motivo personale? Fece Will Ladislav, punto sul vivo e volgendosi di scatto. Per la prima volta si sentiva sdegnato con Lydgate, ancora di più forse perché avrebbe voluto rifiutare qualsiasi esame approfondito sullo sviluppo dei suoi rapporti con Mr. Brooke. Assolutamente no, disse Lydgate. Stavo semplicemente spiegando la mia linea di condotta. Intendevo dire che uno può lavorare per uno scopo particolare con altri i cui motivi e la cui condotta generale sono ambigui, se è assolutamente certo della sua indipendenza personale e di non lavorare per il suo interesse personale, si tratti di posizione o di denaro. Allora, perché non estendete la vostra larghezza di vedute agli altri? Chiese Ladislav ancora punto sul vivo. Per me la mia indipendenza personale è importante come per voi la vostra. Non avete maggiori motivi per pensare che io mi aspetti favori personali da Brooke di quanti ne abbia io per pensare che voi vi aspettiate dei favori personali da Bulstrode. I motivi sono punti d'onore, credo, nessuno può dimostrarli. Ma quanto al denaro e a una posizione sociale, terminò Will gettando il capo all'indietro. Penso che sia abbastanza chiaro che non sono spinto da considerazioni di quel genere. Mi fraintendete completamente, Ladislav, disse Lydgate sorpreso. Si era lasciato prendere dalla difesa di se stesso ed era rimasto cieco di fronte a ciò che Ladislav avrebbe potuto dedurre sul suo conto. Vi chiedo scusa per avervi irritato senza volerlo. In effetti, vi attribuirei piuttosto un romantico disinteresse per i vostri vantaggi mondani. Sulla questione politica mi riferivo semplicemente a pregiudizi intellettuali. Come siete davvero sgradevoli tutti e due questa sera, esclamò Rosamond. Non riesco a capire perché se dovesse tirare in ballo il denaro. La politica e la medicina sono argomenti abbastanza spiacevoli per litigare. Tutti e due potete continuare a litigare con tutto il mondo e l'uno con l'altro su questi due argomenti. Rosamond aveva un aspetto mitemente imparziale mentre diceva questo, alzandosi per suonare il campanello e poi dirigendosi verso il suo tavolo da lavoro. Povera Rosie, esclamò Lydgate allungando la mano verso di lei mentre gli stava passando davanti. I dibattiti non sono divertenti per i cherubini. Fa un po' di musica. Chiedi a Ladislav di cantare con te. Quando Will se ne fu andato, Rosamond disse al marito: Cosa ti ha fatto uscire dai gangheri questa sera, Tertius? Io? Era Ladislav a essere fuori dai gangheri. Prende fuoco per niente. Ma voglio dire, prima di quello. Qualcosa ti aveva irritato prima che entrassi in casa. Si vedeva che eri seccato e questo ti ha portato a discutere con Mr. Ladislav. Mi fai tanto male quando hai quell'aspetto, Tertius. Davvero? Allora sono una bestia, disse Lydgate accarezzando l'appentito. Che cosa ti seccava? Oh, cose di fuori, affari. In realtà si trattava di una lettera che sollecitava il pagamento di un conto per i mobili. Ma Rosamond aspettava un bambino e Lydgate voleva risparmiarle ogni turbamento.